29° canto del Purgatorio, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrata da Pierre. Purgatorio. 29° canto. Cantando come donna innamorata, continuò col fin di sue parole: «Beati quorum tecta sunt peccata!» E come ninfe che si givan sole per le salvatiche ombre, disiando qual di veder, qual di fuggir lo sole, allor si mosse contra il fiume, andando su per la riva, e io, pari di lei, picciol passo con picciol seguitando. Non eran 100 tra i suoi passi miei, quando le ripe ugualmente dier volta, per modo che levante mi rendei. Né ancor fu così nostra via molta, quando la donna tutta a me si torse, dicendo: «Frate mio, guarda e ascolta!» Ed ecco un lustro subito trascorse da tutte parti per la gran foresta, tal che di balenar mi mise in forse. Ma perché il balenar come vien resta, e quel durando più e più splendeva, nel mio pensier dicea: «Che cosa è questa?» E una melodia dolce correva per l'aere luminoso, onde buon zelo mi fe riprendere l'ardimento d'Eva, che là, dove ubbidia la terra e il cielo, femmina, sola e pur testé formata, non sofferse di star sotto alcun velo, sotto il qual, se divota fosse stata, avrei quelle ineffabili delizie sentite prima e più lunga fiata. Mentre io m'andava tra tante primizie dell'eterno piacer tutto sospeso e disioso ancora più letizie, dinanzi a noi, tal quale un fuoco acceso, ci si fe l'aere sotto i verdi rami, e il dolce suon per canti era già inteso. O sacrosante vergini, se fami, freddi o vigilie mai per voi soffersi, cagion mi sprona ch'io mercè vi chiami. Or convien che l'icona per me versi, e Uranie m'aiuti col suo coro forti cose a pensar mettere in versi. Poco più oltre, 7 alberi d'oro falsava nel parere il lungo tratto del mezzo che era ancor tra noi e loro. Ma quand'i fui sì presso di lor fatto, che l'obietto comun, che il senso inganna, non perdea per distanza alcun suo atto, la virtù, ch'a ragion discorso ammanna, sì come egli eran candelabri apprese, e nelle voci del cantare: «Osanna!» Di sopra fiammeggiava il bello arnese più chiaro assai che luna per sereno di mezzanotte nel suo mezzo mese. Io mi rivolsi, d'ammirazion pieno, al buon Virgilio, ed esso mi rispose con vista carca di stupor non meno. Indi rendei l'aspetto all'alte cose che si movien contra noi sì tardi che foran vinte da novelle spose. La donna mi sgridò: «Perché, pur ardi sì, nell'affetto delle vive luci e ciò che vien di retro a lor non guardi?» Genti vid'io allor, come a lor duci, venire appresso, vestite di bianco, e tal candor di qua giamai non fuci. L'acqua imprendea dal sinistro fianco, e rendea me la mia sinistra costa, s'io riguardava in lei come specchio anco. Quand'io dalla mia riva ebbi tal posta, che solo il fiume mi facea distante, per veder meglio ai passi diei di sosta. E vidi le fiammelle andar davante, lasciando dietro a sé l'aere dipinto, e di tratti pennelli avean sembiante, sì che di sopra rimanea distinto di 7 liste tutte in quei colori onde fa l'arco il sole ed egli al cinto. Questo stendale indietro era maggior che la mia vista e, quanto a mio avviso, 10 passi distavan quei di fori. Sotto così bel cielo com'io diviso, 24 signori, a due, coronati venien di fiordaliso. Tutti cantavan, «Benedicta tua nelle figlie d'Adamo, e benedette siano in eterno le bellezze tue!» Poscia che i fiori e l'altre fresche erbette a rimpetto di me dall'altra sponda libere fuor da quelle genti elette, sì come luce, luce in ciel seconda, vennero appresso lor 4 animali, coronati ciascun di verde fronda. Ognuno era pennuto di 6 ali, le penne piene d'occhi, e gli occhi d'argo, se fosser vivi, sarebbero cotali. A descriver lor forme più non spargo rime, lettor, ch'altra spesa mi strigne, tanto ch'a questa non posso esser largo. Ma leggi Ezechiel, che li dipigne come li vide, dalla fredda parte venir con vento, e con nube, e con igne, e quali troveranno nelle sue carte, tali eran quivi, salvo che le penne Giovanni e meco, e da lui si diparte. Lo spazio dentro a lor 4 contenne un carro, in su 2 rote, trionfale, ch'al collo d'un grifon tirato venne. Esso tendeva in su l'una e l'altra ale tra la mezzana e le 3 e 3 liste, sì che nulla fendendo facea male. Tanto salivan che non eran viste. Le membra d'oro avea quant'era uccello e bianche l'altre, di vermiglio miste. Non che Roma di carro così bello rallegrasse africano ovvero augusto, ma quel del sol saria pover con ello. Quel del sol che sviando fu combusto per l'orazione della terra devota quando fu Giove arcanamente giusto. 3 donne in giro della destra rota venian danzando, l'una tanto rossa appena fora dentro al fuoco nota. L'altra era come se le carni e l'ossa fossero state di smeraldo fatte. La terza parea neve, testa e mossa. E or parean dalla bianca tratte, or dalla rossa. E dal canto di questa l'altre toglien l'andare e tarde e ratte. Dalla sinistra 4 facean festa, in porpore vestite, dietro al modo d'una di lor ch'avea 3 occhi in testa. Appresso tutto il ritrattato nodo, vidi 2 vecchi, in abito dispari, ma pari in atto e onesto e sodo. L'un si mostrava alcun dei familiari di quel sommo Ippocrate che natura gli animali fe ch'egli ha più cari. Mostrava l'altro la contraria cura con una spada lucida e aguta, tal che di qua dal rio mi fe paura. Poi vidi 4 in umile paruta, e di retro da tutti un vecchio solo venir, dormendo con la faccia arguta. E questi 7 col primaio stuolo erano abituati, ma di gigli d'intorno al capo non facean brolo, anzi di rose ed altri fior vermigli. Giurato avria poco lontano aspetto che tutti ardesser di sopra da cigli. E quando il carro a me fu a rimpetto, un tuon s'udì, e quelle genti degne parvero aver l'andar più interdetto, fermandosi ivi con le prime insegne. Fine del 29° canto del Purgatorio.